chiaro che stiamo nelle previsioni e anche i comunicati che noi abbiamo dai vari paesi, dagli analisti che seguono queste cose, tra l'altro cambiano di mese in mese le previsioni, anche perché nel mese scorso sì, sapevamo già della stagione, ma le previsioni di produzione della Russia, anche dell'Europa e anche della stessa Italia, perché anche noi abbiamo avuto dei problemi con le piogge al nord, eccetera, quindi delle rese molto più basse del passato. Solo in questo mese c'è un conteggio sugli eventuali stock internazionali che portano verso il ribasso, e questo è un indice che poi fa oscillare la questione dei prezzi, che vuol dire che il prodotto c'è, però quello che si guarda è lo stock a livello internazionale, a garanzia ovviamente delle prossime annate, ed è quello che è un po' un indice che fa muovere i prezzi.